Lasciatemi sognare, lasciatemi sperare, i miei castelli in aria non voglio abbandonare. Lasciate che mi illuda e nulla chiederò. Perduto tra i miei sogni, felice resterò. C'è lassù, fuori della realtà, la solitudine e la felicità. Lasciatemi sognare, lasciatemi sperare, nel mondo dei miei sogni c'è la felicità. Fuori della realtà, la solitudine e la felicità. Lasciatemi sognare, lasciatemi sperare, nel mondo dei miei sogni c'è la felicità.